sulle occasioni che ho perso o rimandato, io volerò su dubbi e delusioni che non ho superato, volerò. Parte oscura e i mostri del passato, io volerò su quello che ho creduto e che mi ha limitato, volerò. Esistenti che mi han condizionato, io volerò su tutti i limiti che oggi e ieri mi sono dato, volerò sulle ingiustizie, sui fallimenti, su ciò che penso e penserò, sul troppo poco amore che ho dato a me, volerò. E volo e vivo soltanto un sogno ancora, volerò. Volo e vivo soltanto un sogno ancora, volerò. E volo e vivo soltanto un sogno ancora.